ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. La scelta del vino era come un rispettare la scaletta di quel pranzo domenicale. Sembrava, ecco, che fosse un super esperto di vino. I camerieri portavano vassoi pieni di roba senza fermarsi mai. A inizio del pranzo, nonno chiamava il solito cameriere, gli raccomandava di portarci tutte cose fresche e poi aggiungeva: per il vino ci pensa mio figlio. Storie di zii memorabili e di falsi artistici in una puntata che si intitola Il Grande Bluff. Hanno trovato la scultura di Modigliani. E chiaramente potete immaginare il mio stato d'animo. Porca miseria, abbiamo buttata ieri sera, l'hanno già trovata. E la gente c'è cascata, sono tutti eccitati, la gente che urla, che salta, che diciamo che balla. Una cosa molto emozionante, ricordo che tanta gente, alcuni piangevano. Il clima nel momento in cui la pietra usciva dall'acqua era quello di un miracolo, perché evidentemente nessuno ci credeva veramente, ma tutti ci speravano. Sembrava che avessero tutti vinto al Totocalcio. Quelle che avete sentito sono le voci degli autori di uno degli scherzi più divertenti e incredibili probabilmente dell'epoca moderna di questo paese, della storia dell'arte di questo paese e non solo. Sono tratte da un film documentario che si intitola Le vere false teste di Modigliani. Sì, perché in questa puntata vi raccontiamo un po' di storie, si intitola Il Grande Bluff e la prima storia che vi raccontiamo è la storia di Gaspare, o meglio dello zio di Gaspare, o come lo chiama lui, il zio, che si finge un grande esperto di una cosa molto specifica che ha a che fare con la ristorazione e con l'enologia, e poi in realtà scopriremo qual è il suo bluff. E poi vi racconteremo l'intera storia delle teste di Modigliani che abbiamo accennato in questo piccolo estratto da quel documentario. Piano piano ve la racconteremo tutta e poi chiuderemo con una puntata della nostra storia seriale che rivela finalmente un dettaglio che era da tempo che volevamo scoprire riguardo a quello che succede a Antonio Cocco quando decide di scappare. Insomma, mettetevi comodi, abbiamo un'ora tutta per noi. Benvenuti a Linee d'Ombra. C'era sempre il zio che sceglieva il vino. Il zio. Dire il zio ci metteva allegria, sia a noi i nipoti, i bambini, sia anche i grandi. Rideva pure mio padre, che non rideva mai. Era una specie di parola in codice, il zio. Stavamo tutti seduti nella tavolata del ristorante a Sferracavallo, tutti eleganti, io con la maglietta di lino, i pantaloncini turchesi e i sandali bianchi, papà giacca e cravatta, mamma addirittura si era truccata al viso. Tutte le zie erano bellissime e io speravo da grande di trovare una fidanzata bella come loro. Anzi, se loro avessero voluto, io mi sarei fidanzato con una di loro, anche subito, oppure con tutte e tre. Ma fra tutti, il zio era quello che mi faceva davvero battere il cuore. Di emozione e di gioia, e di famiglia. Il zio era come il rappresentante di tutti noi, forse una specie di simbolo. Il zio era l'unico che era andato fuori dalla Sicilia e forse pure fuori dall'Italia. Certo, pure mamma e papà e gli altri zii, quando si erano sposati, erano partiti ed erano andati a Venezia. Noi avevamo pure le prove. A casa, in camera da letto c'era la foto di mamma con il braccio teso e la mano a conca assalita dai piccioni a Piazza San Marco. Ma quello era una specie di viaggio obbligatorio, perché a quei tempi, se ti sposavi, almeno a Venezia ci dovevi andare. E ti dovevi fare la foto a Piazza San Marco con la mano a conca assalita dai piccioni. Il zio, invece, era partito per un sacco di motivi, per fare i concorsi pubblici, per accompagnare mia nonna quando si era ricoverata a Milano e una volta era pure andato a Rimini. Lui diceva che il mare non era un granché, ma che c'era una cosa che valeva la pena del viaggio, la piadina. Guardava mio padre e gli altri zii e sventolando la mano diceva: fanno una piadina. Questo mio zio era per me una figura mitica. Da piccolo lo guardavo come l'adulto che un giorno sarei voluto diventare. Era bello esteticamente, era sicuro di sé, era divertente. E oggi quando io scherzo, faccio una battuta, ho dentro di me una parte di lui. Tutti i maschi scoppiavano a ridere e anche io ridevo, anche se non capivo bene perché una cosa che si mangia li facesse tanto ridere. Ma che ne dovevo capire io, se le cose che diceva il zio non le potevano capire neanche i grandi. Queste piadine, oltre lui, non le aveva mangiate nessuno, secondo me. A Sferracavallo ci andavamo a mangiare pesce, non spesso, e quando capitava pagava sempre il nonno. Pagava per tutti, perché festeggiavamo qualcosa o perché gli affari in officina andavano bene. La famiglia in quelle occasioni era in perfetta armonia, neanche a Natale eravamo così sereni. I camerieri portavano vassoi pieni di roba senza fermarsi mai. A inizio del pranzo, però, nonno chiamava sempre il solito cameriere, quello più anziano, gli raccomandava di portarci tutte cose fresche e poi aggiungeva: per il vino ci pensa mio figlio. Well, the first days are the hardest days, don't you worry anymore. Cause when life looks like easy street, there is... Il zio allora guardava il cameriere come se lo dovesse mettere a fuoco e gli chiedeva: cosa mi propone come bianco? Bianco secco. Tutta la famiglia stava in assoluto silenzio. Assistevamo a quel dialogo col fiato sospeso. Il nonno guardava il zio con un orgoglio che gli faceva luccicare gli occhi. Il cameriere, dritto come se avesse inghiottito un bastone, elencava una serie di nomi e a ogni nome il zio sospirava e scuoteva la testa come se qualcosa non gli tornasse. Poi diceva: ha per caso uno chardonnay? La scena era sempre la stessa. Ogni volta il zio, arrivato a quel punto, diceva sempre la stessa frase: ha per caso uno chardonnay? Avrebbe potuto farlo chiunque: il nonno, mio padre, un altro zio, forse pure io. Sarebbe bastato che a un certo punto dicessi: ha per caso uno chardonnay? Ma nessuno lo avrebbe saputo dire come il zio. Chardonnay. Sì, aveva questo modo di dire chardonnay, proprio come se fosse scritto così, un po' teatrale, ma volendo era dovuto anche al fatto che quello era un giorno di festa dove un po' tutto veniva vissuto con enfasi. Quel giorno, proprio mentre tutti mangiavano e io ero talmente pieno che mi ero aperto un bottone del pantalone per riuscire a respirare, decisi di chiederglielo, così, tra di noi, sottovoce: zio, ma perché chiedi sempre questo chardonnay? Lui aveva gli occhi un po' lucidi con un'espressione di sonnecchiosa felicità. È un vino secco che sta bene col pesce, mi rispose anche lui sottovoce. E che cos'è un vino secco, zio? Il zio a quel punto mi fissò dritto negli occhi. Il suo sguardo sembrò destarsi, poi sorrise, avvicinò la sua bocca al mio orecchio e disse: non lo so, non ne ho la più pallida idea. Stavo per fargli un'altra domanda, avrei voluto sapere perché chiedeva proprio questo chardonnay, ma lui prese il suo bicchiere e me lo passò e fece di sì con la testa. Tutti urlavano, papà faceva finta di essere distratto, le zie ridevano forte, mamma addirittura con le lacrime agli occhi. Eravamo sereni che neanche a Natale. Io mandai giù tutto d'un fiato quello che c'era dentro il bicchiere, come se stessi rubando qualcosa. Chardonnay, disse lui, come se fosse una formula magica. Chardonnay, ripetei io come un piccolo apprendista stregone. Ma nessuno avrebbe saputo far suonare così bene quella parola, come faceva lui, il zio. La puntata di oggi si intitola Il Grande Bluff, per, come sempre facciamo, per almeno un paio di buoni motivi. Il primo è la storia che vi raccontiamo, che arriva da un nostro ascoltatore, e l'altra invece è quella che vi raccontiamo, che troviamo in giro per il mondo. Noi abbiamo deciso di intitolarla così, con grande simpatia e affetto nei confronti dello zio, anzi del il zio, come lo chiama Gaspare, un po' nei confronti del zio, ma anche un po' nei confronti di Gaspare, che ormai è un affezionato dei nostri programmi. Pronto, ciao Gaspare, buongiorno. Ciao Matteo. Come stai? Molto bene, tu? Io sto bene anche io, ti ringrazio. Gaspare, se qualcuno è un ascoltatore attento delle cose che facciamo, sicuramente se lo ricorda, si ricorda le sue storie bellissime che, Gaspare, hanno tutte, diciamo, una sorta di sapore comune, ha a che fare un po' con la Sicilia, un po' con la famiglia, un po' con il cibo. Se dovessi, come dire, tirare delle fila che uniscono il tuo immaginario di racconti di storie di vita, giusto? Sì, me ne sono accorto anche io col tempo. Ogni volta o parlavo di arancine o di pasta al forno, allo spiedo, insomma c'è un po' di tutto. C'è tanta famiglia e c'è questa figura che ci piace tantissimo di questo zio, che tra l'altro, ecco, lo dico purtroppo, ascoltando non si può capire, ma graficamente Chardonnay, Gaspare lo scrive Chardonnay col SC e non col, cos'è, CH, immagino. Sì, CH. Okay. Perché questa scelta, Gaspare? Intanto perché nasce questo racconto per, come qualcosa di scritto, quindi il lettore volevo che lo leggesse così come io lo ho ascoltato da bambino, come ho ascoltato da bambino, e con una dizione un po' più siciliana, forse un po' più marcata. E quindi la scelta è per questo. Senti, quella fu scusami, finisci. E poi riflettevo sul fatto che dopo tante cose da mangiare ho aggiunto qualcosa anche da bere. Da bere, esatto. Senti, fu la prima volta che tu bevessi del vino? È stato, sì, il mio primo momento alcolico della mia vita, credo avessi più o meno 10 anni. Senti, ma quando lo zio ti ha rivelato il bluff, cioè ti ha detto guarda io non so cosa sia esattamente il bianco secco, tu come l'hai presa? Cioè ti si è sgretolato un mito oppure al contrario hai pensato no beh questo è il numero uno? Credo di aver pensato che è il numero uno, credo di aver pensato questo, però di sicuro sono rimasto enormemente spiazzato. Poi c'è stato il bicchiere di vino addosso, quindi ancora di più. e in seguito ho avuto modo di riflettere su questa cosa. Senti, visto che appunto, come dicevo prima, spesso torna la tua famiglia, non la tua famiglia, la famiglia nelle storie che ci racconti, quella precedente, quella composta dai tuoi genitori, dagli zii, dai nonni, sono sempre curioso di sapere adesso a che punto è la vita degli ascoltatori. Tu adesso hai una, che famiglia hai adesso? Hai dei figli? Hai una compagna? Sì, ho dei figli, ho due figli, una compagna, e poi tutto il resto della famiglia un po' ci è sgretolata. Quindi non, praticamente siamo un po' tutti, ma quasi tutti tra l'altro, ognuno nella sua vita, ma non più uniti come un tempo. Nonostante siate in Sicilia tutti quanti oppure siete sparpagliati? Infatti, paradossalmente c'è il mito della famiglia magari siciliana, unita, però forse siamo un'eccezione, però ognuno nel suo mondo, io li riunisco un po' nei miei racconti. E tra l'altro ovviamente la domanda va da sé, che tutti si stanno facendo, questo zio c'è ancora, se c'è ancora come sta, se fate ancora questi pranzi o queste cene? No, questo zio è stato un compagno poi di scorribande anche quando sono diventato più adulto, vivevamo proprio di amici e quando eravamo in giro evitavamo di dire che fossimo zio e nipote per sembrare più quello che eravamo, però poi col tempo anche con lui ci siamo persi, ognuno ha preso la propria strada, ma ho capito che non è una cosa strana, può capitare ed è normale, anche tra parenti intimi. Quindi non c'è stato uno screzio, semplicemente le cose come spesso, cioè la vita, no, ti porta lontano, tutto qua. Sì, nonostante vi continuiamo a vivere nella stessa città, sì, a volte forse ci sono screzi che sono difficili da spiegare, non lo so, non vorrei farla difficile, però credo che sia così. Quindi non ci siamo più visti. Questo programma non nasce per quello, se, però magari mi immagino che potresti inviargli il podcast per farglielo ascoltare, magari potrebbe essere un modo semplicemente per dirsi uè ciao come stai, uè ciao come stai, lo dico io. Sì, no, ormai credo che lui esista solo nei miei ricordi e va bene così. Rincontrarsi sarebbe forse solo difficile e doloroso. Quando le cose si chiudono, sono passati tanti anni da quando non ci vediamo, forse anche più di 7, quindi non avrebbe più senso. Va bene, allora io ti ringrazio semplicemente per la storia, Gaspare, ti faccio gli in bocca al lupo per tutto. A presto. Grazie a voi. Grazie mille. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Stay with me, I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one. Grazie mille a Gaspare per la sua storia. Se avete voglia, fate come lui. Gaspare ci manda praticamente una storia a stagione, grosso modo. Se avete voglia, fatelo anche voi. Linee d'ombra, @radio24.it, una pagina e noi ci tiriamo fuori un'intera puntata. Non so se l'ho già raccontato qui a Linee d'ombra, ma io ho una passione per alcune città del nostro paese. Sono città in cui mi piacerebbe prima o poi andarci a vivere, tre in particolare. Una è Trieste, una è Cagliari e una è Livorno, per delle ragioni che sono in qualche modo simili, ma anche diverse in alcune specifiche. Tant'è, amo moltissimo Livorno, ho avuto la fortuna di passarci un po' di tempo, di lavorarci e ho scoperto lo straordinario spirito dei livornesi, che secondo me viene fuori in maniera evidente, in maniera molto precisa, in una storia che tutti hanno conosciuto come la storia delle teste di Modigliani. Quando a un certo punto, nel 1984, sul Lungarno di Livorno, vengono ritrovate delle teste dell'artista che era chiaramente livornese. Verrà fuori che quella cosa lì era un bluff. La puntata di oggi si intitola Il grande bluff ed è il motivo per cui noi ve la raccontiamo. È una storia che magari avete sicuramente l'avete sentita citare, però magari non la conoscete nello specifico, non conoscete la storia dei tre studenti e dell'artista che hanno contribuito a insaputa gli uni degli altri a questo straordinario bluff che probabilmente poteva avvenire in moltissime città, ma una di quelle non poteva altri che essere la città di Livorno. Noi l'abbiamo letta sul sito di una casarasta che si chiama barnabys.it e si intitolava Il caso Modigliani, come tre studenti hanno beffato il mondo dell'arte. State con noi. Il periodo è quello della caldissima estate del 1981. Il luogo, Livorno. La città toscana è alle prese con i festeggiamenti del centenario della nascita di un suo illustre cittadino, Amedeo Modigliani. L'artista non aveva avuto un ottimo rapporto con la sua città natale. Si diceva infatti che venisse preso in giro dai livornesi per lo strano stile delle sue sculture. Questa fu una delle ragioni che lo indussero a lasciare la città alla volta di Parigi, ai tempi fulcro delle avanguardie. Nella capitale francese, Modi ebbe modo di conoscere e collaborare con gli artisti di quell'epoca e di organizzare la sua prima personale nel 1917. L'artista non sarebbe mai più tornato a vivere a Livorno e sarebbe deceduto pochi anni dopo di tubercolosi. Dopo la morte, la vita sregolata e l'appellativo di Modi contribuiranno alla sua fama postuma, tanto da essere considerato come uno dei migliori artisti di arte moderna dello scorso secolo. Modigliani a Parigi non è uno perso, perché fa parte del giro, cioè fa parte, gira in quel giro che sta fra la Butte e l'area di Montparnasse, cioè passa anche lui alla Closerie di Lila. Allora si conoscono tutti, lui conosce Picasso, lui conosce i giovani artisti, ma soprattutto è legato ai mercanti, perché chi organizza effettivamente la vita culturale allora sono i grandi mercanti. Cioè Zborowski gioca un ruolo fondamentale, perché in quelle botteghe ci si incrocia, si forma delle amicizie, partecipa a quel mondo lì, ma soprattutto ne assorbe una serie di caratteristiche, senza diventare un codista. È per quello che lui è un protagonista, perché il suo linguaggio rimane stabile. In occasione del centenario, Modigliani viene celebrato nella sua città in pompa magna, con una mostra al Museo d'Arte Moderna di Villa Maria, a Livorno. I curatori dell'esposizione, i fratelli Vera e Dario Durbet, allestiscono una stanza con 4 delle 26 teste di Modigliani. Vera, la direttrice del museo, rievoca una leggenda secondo la quale il giovane Modi avrebbe gettato nell'Arno alcune statue in quanto insoddisfatto del risultato. Il ritrovamento di una testa di Modigliani fa gola a tutti. Una scavatrice, finanziata dalla sovrintendenza, inizia quindi a dragare il fiume. Michele Ghelarducci, Pietro Luridiana e Pier Francesco Ferrucci sono tre studenti universitari in un periodo di stanca, come diranno poi alle telecamere della RAI. Gli esami sono finiti e si stanno godendo l'estate. I tre, come tutta la città, seguono la vicenda delle teste di Modigliani in un clima di grandissima attesa e speranza. I giorni però passano e ancora nulla è stato ritrovato. I ragazzi, grazie a un'idea di Pietro, decidono di fare una testa nello stesso stile dell'artista, con un martello e un trapano elettrico. Il loro si tratta di uno scherzo. Sono certi che i critici si accorgeranno immediatamente del falso. in principio è soltanto una leggenda, rispolverata da qualche giornalista più colto degli altri, solo perché il 1984 è l'anno del centenario della nascita. La leggenda diceva che in una notte di novembre del 1909 Amedeo Modigliani aveva gettato in un canale di Livorno alcune sue sculture. Un vecchio marinaio lo aveva visto percorrere la strada spingendo una carriola e poi aveva sentito i tonfi come di pietre che cadevano in acqua. Perfino William Fifeld, il biografo più attento del grande artista, ne fa cenno nella sua opera. Dalla leggenda alla certezza il passo è breve. Alle 9 di mattina del 24 luglio le pale di una benna meccanica strappano al fango del canale un oggetto di pietra. È lei, è una statua di Modigliani. A metà pomeriggio ne viene fuori un'altra. Uno scoop culturale, gridano i giornali di tutto il mondo. Vera Durbè, direttrice del museo dedicato all'artista e organizzatrice dei festeggiamenti per il centenario, non ha dubbi. Le statue sono di Amedeo Modigliani. Dopo una lunga attesa, l'ottavo giorno di dragaggio del fiume avviene finalmente un primo ritrovamento. Con grande sorpresa dei giovani, però, non si tratta della loro testa. Dopo poche ore viene finalmente ripescata anche la scultura dei ragazzi. Nel clima di gioia e frenesia si trova un'ultima statua. Le teste diventano quindi tre. I ragazzi però non sanno che anche le altre sono un falso. Sono state infatti ideate e gettate nell'Arno dall'artista Angelo Froglia, con lo scopo di evidenziare come attraverso un processo di persuasione collettiva, attraverso la RAI, i giornali e le chiacchiere tra le persone, dice Froglia, si potevano condizionare le convinzioni della gente. I tre ragazzi sono sempre convinti che gli esperti del settore, almeno per quanto riguarda la loro statua, faranno tornare tutti con i piedi per terra. Dunque la leggenda era vera. Le sculture giovanili di Amedeo Modigliani sono state restituite dal fango dei fossi di Livorno dopo 75 anni. Ieri pomeriggio, in attesa di vedere i due straordinari reperti, c'era tutta la stampa nazionale e le televisioni di mezzo mondo. I due volti ancora non hanno avuto il sigillo di autenticità, gli studi e le analisi saranno lunghi, ma a Livorno non hanno dubbi. Chi mai avrebbe potuto scolpire un naso così, se non Modigliani? And something has been found in a canal in the Italian city of Livorno. A rare find in a canal in western Italy. A pair of sculptures by Modigliani. La notizia dei ritrovamenti finisce intanto sui notiziari di tutto il mondo. E l'autenticità di tutte e tre le teste viene avvalorata dai più grandi critici e storici del tempo, tra cui Carlo Giulio Argan, mentre poche voci, come quella del critico livornese Pepi, parlano di falso. I ragazzi decidono di confessare tutto in un'intervista esclusiva al giornale Panorama. L'opinione pubblica è incredula, tanto che i giovani replicheranno in diretta televisiva la riproduzione della testa con gli stessi strumenti rudimentali di cui avevano parlato. Poco dopo anche Angelo Froglia esce allo scoperto e confessa lo stesso per le altre due statue. La mostra al Museo d'Arte Moderna di Villa Maria chiude i battenti nel clamore generale e nel silenzio del mondo dell'arte. La vicenda, che resterà impressa nella memoria collettiva come il caso Modigliani, è stata di recente raccontata in un lungometraggio del 2011 intitolato Le vere false teste di Modigliani. Trovata sul sito barnabys.it, si intitola Il caso Modigliani, come tre studenti hanno beffato il mondo dell'arte. La ricordiamo come una delle più belle e divertenti beffe di recente fattura. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui con la nostra storia seriale. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo. La mia linea di confine si lega a quello che faccio, io sono maestro elementare e sento di essere sul confine. Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita. Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente... Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova. Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio prendete padre, il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721.

mi sono seduto vicino a lui in maniera che non potesse sfuggirmi e gli ho detto: professore, sono Rienzo, l'amico di Tony. Tony era il migliore, lei ce l'ha sulla coscienza. E poi mi ha raccontato che questo professore si mise a piangere. Io vi ricordo che la nostra storia seriale la raggruppiamo in un mazzetto che racconta tutta quanta la settimana, dal lunedì al venerdì, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24, oppure in podcast come sempre, come tutto. Lo potete ritrovare sul sito di Radio 24, alla pagina di Linee d'Ombra, o altrimenti su qualunque strumento utilizzate per scaricare i vostri podcast. Grazie alla famiglia Cocco, grazie a Mauro Pecio, grazie ad Anita Panizza, a Luca Micheli e a Paolino Corleoni. Ora lasciamo la linea al GR, io vi auguro un ottimo weekend, noi torniamo lunedì puntualissimi per raccontare storie che rimane nel modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it